con Marco Ceccotti per parlare del nuovo appuntamento di Sgombro, varietà tragicomico numero 22, a Roma, al nuovo Cinema Palazzo, venerdì 14 dicembre. Marco, ben trovato. Esatto, hai detto tutto tu, grazie. Possiamo salutarci. Cioè, no, siamo qui, facciamo una bella chiacchierata per invogliare tutti a venire a vedere un po' di varietà come quello di una volta, ma sempre moderno e attuale. Ecco, dacci una tua definizione di Sgombro. Ma Sgombro che cos'è? Adesso è una fontana di acqua fresca dove abbeverarci, dove tutti quelli che hanno voglia di divertirsi con la comicità ma anche con la tragicità possono venire ad abbeverarsi in questo clima torrido romano, caldo e senza speranza. Siamo un oasi, ecco. Senti, comunque sta mantenendo un suo appuntamento. Di solito è un mese, solo che adesso con il Natale, no? Sì, la festa, sì. Sta andando bene, però metterci contro, cioè farlo un mese dopo, sarebbe accaduto proprio a Natale, metterci contro le varie festività, i vari santi, i vari Babbo Natale, no, non ce l'avremmo fatta, diciamo, ci avrebbe sconfitto più pubblico il Natale di noi, quindi abbiamo detto proviamo a farlo, comunque un appuntamento a dicembre, un po' prima che tutti fuori sede ritornino nelle proprie case, prima di essere troppo pieni di cibo e aver voglia di una tombolata e non uscire ad andare a teatro, quindi solamente per dicembre quindicinale, poi si ritorna al mensile. Allora, quanti e chi sarete? Allora, in questo appuntamento saremo, ci sono tanti ospiti, per Natale vogliamo regalare tanti nuovi ospiti al pubblico che verrà a vederci, del gruppo di Sgombro, c'è Giovanmarcolo Bozza con le sue poesie, c'è Davide Grillo, Parisi, poi saremo noi del Nano Egidio, Simona e io, che presenteremo nel ruolo di presentatori, avremo l'onore di sostituire il buon Ivan Talarico che è in giro a far concerti con il suo occhio destro che ha un aspetto sinistro, quindi io e Simona lo sostituiremo alla presentazione, faremo anche dei sketch anche noi. Poi ci sono degli ospiti, c'è la conferma di Valerio Lundini che è venuto anche la volta scorsa, che ha avuto un gran successo, si è trovato molto bene, ci ha chiesto di tornare, noi abbiamo detto perché no, e quindi tornerà e farà un pezzo suo comico come solo lui sa fare. Poi ci sarà Andrea Cosentino, grande ospite, anche lui un amico di Sgombro, c'è già stato e abbiamo deciso di ospitarlo, fresco candidato al premio Ubu e noi gli auguriamo di vincere perché se lo merita. E poi c'è Lucio Leoni che ci farà un pezzo, credo non musicale, un Lucio Leoni diverso che ci proporrà una cosa nuova. E poi c'è anche come ospite Francesco Lancia, lui è un improvvisatore, attore, autore, improvvisatore con la compagnia dei Bugiardini a Roma, è autore di un sacco di trasmissioni radiofoniche, radio DJ, poi anche di televisione, ieri sera ha debuttato su Rai 2 nel programma di Arbore anche, quindi, e ci farà il dottor Lancia che sta avendo un successo su Radio DJ dove darà dei consigli medici a tutti. Senti, ma se non sbaglio è la prima volta che non c'è Ivan Talarico a condurre? Allora, mi sembra che si è assentato anche altre volte. Okay. Una volta sostituito da Davide Grillo e un'altra volta sostituito da Gioia Salvatori e Daniele Parisi. È già successo, quindi. È già successo, già ci ha lasciato, ma sempre ci guarda dall'alto sempre, perché comunque è alto. Quindi è alto. Sì, sì. Ah, poi ci sarà anche un contributo video di Gioia Salvatori. Ah, ok. Per le quote rosa. Per le quote rosa. Senti Marco, ma come vi state preparando tu e la tua socia per questa conduzione? Non mi sembra una cosa facile. No, non è facile, perché comunque devi essere abbastanza bravo da fare da collante. Anche robusto. Sì, anche se giusto, giusto, non devi essere troppo invasivo, perché comunque il nocciolo è, sono gli interventi degli ospiti e di tutti gli altri artisti. Però ci stiamo inventando qualcosina, vediamo. Condurre le cose mi è sempre piaciuto, ho condotto qualche cosa in passato, dei altri spettacoli, maestro di cerimonia per delle improvvisazioni, quindi mi piace, mi stiamo inventando qualche gag per intrattenere. In genere poi conduci anche delle trattative. Sì, anche delle trattative, infatti, ma anche penso domani condurrò delle trattative. Chi volete? Volete più ridere? Volete più poesia? Voi cosa ci date? Ci date più applausi, più amore, più abbracci? Quindi se, vabbè, con Simona ovviamente mi trovo proprio bene, quindi bene. Saremo spero all'altezza di Mantalarico, e appunto ci metteremo dei tacchi o delle casse della frutta resistenti. E allora ricordiamo l'appuntamento con Sgombro, varietà tragicomico numero 22 a Roma al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 14 dicembre. Un saluto e ringraziamento a Marco Ceccotti, che sarà sul palcoscenico. Un saluto a tutti, vi aspettiamo.